la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori. Oscar Giannino vi dà un buon mercoledì 19 di febbraio 2014. Avete forse sentito le giornali radio, Renzi scioglierà la riserva e quindi per speriamo entro la fine settimana di vederlo sto governo, ma oggi sicuramente molti di voi saranno stati presi dal tema di cui non ci occuperemo, lo richiamo solo all'inizio della puntata, perché questo incontro che c'è stato tra Renzi e Grillo io spero che faccia riflettere molti, non do giudizi, però a me non è piaciuto. Perché se Grillo non ci voleva andare, poi ha fatto la consultazione online e la maggioranza di chi gli ha risposto dei suoi gli ha detto vacci, e forse doveva dire, proporre, ascoltare, dire no. Però insomma abbiamo assistito a una cosa nella quale non lo faceva parlare. E poi ha detto una cosa che mi ha molto colpito. Ha detto: ma quello che conta nel tuo caso non è le proposte, il fatto che tu, per il solo fatto di avanzarle, io ti devo disconoscere. Ma questo movimento non era nato per guardare, cambiare le cose nel merito, eccetera, eccetera. Io vi do solo questa riflessione. Poi, dopodiché, questo non toglie che capisco tanti tra voi che pensano che poi votare 5 Stelle è al momento l'unica alternativa. Però riflettete su quello che è accaduto oggi, perché effettivamente, secondo me, non è stata una buona cosa. Se uno non ha niente da dire, non la dice. Ma se uno incontra, deve dire e ascoltare. Se incontra per interdire e impedire la parola, va bene, posso capirlo, ma non è politica. Stiamo parlando di un'altra cosa, cioè stiamo parlando della cosa spero che tu non faccia nulla, perché solo così vive la mia alternativa. E questa è l'alternativa costruita sulla tabula rasa. Forse molti di voi saranno convinti che è quella giusta, però io sono convinto del fatto che Renzi non farà quello che penso io, ma spero che qualcosa di buono faccia rispetto a come è ridotto il paese. Non è questo il tema di oggi. Oggi, siccome tutti ancora, aspetteremo ancora per qualche giorno il titolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avete visto quanto lunga è la lista di quelli che hanno detto no, di quelli che forse sì, eccetera, eccetera. Risatina sommessa verso il ministro Saccomanni, che ieri ha detto: ma se mi chiamano prenderò in considerazione. Ho detto agli amici della Zanzara: non chiamate, perché è evidente che Saccomanni risponderebbe subito a chiunque si spacciasse per confermarlo ministro. Però detto questo, ci occupiamo di una controverità oggi. Siccome per l'ennesima volta girano molti nomi di tecnici economisti per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ho deciso di parlare oggi di un libro che mi ha molto colpito, mi è molto piaciuto a dire la verità, me lo sono sciroppato tutto di corsa, sono 280 pagine, abbastanza fitte. Non è un libro per addetti ai lavori, certo bisogna essere appassionati di economia, però non è un libro fitto di equazioni e di vettori autoregressivi, cioè le cose con cui si fanno da una ventina d'anni i modelli econometrici, però è un libro bellissimo ed è un libro scritto da un protagonista del mondo del risparmio italiano, perché è amministratore delegato di una società che ha fatto la storia, una società pioniere nel trading online, che scrive un libro contro gli economisti. Contro gli economisti, però lo fa in una maniera che io vi consiglio con tutto il mio cuore. Non è un libro impregnato di pregiudizi. Lui utilizza un termine che è tagliente e fondamentale nella storia dell'economia moderna, il termine capitale, e tenta di capire, a seconda di tutto quello che hanno detto gli economisti dei secoli, su cosa sia o non sia il capitale, e li esamina tutte le scuole, tutti i fondatori, tutti i guru, eccetera, eccetera, i fisiocrati, Adam Smith, i neoclassici, gli offertisti, la scuola austriaca che a me piace, fino ad arrivare a Keynes, gli economisti contemporanei, e arriva a una conclusione. E dice: ma in definitiva, non solo non è una scienza, e a questo aderisco anch'io, ma il problema, perché secondo me è una disciplina che ha a che fare con l'osservazione della scelta di milioni di persone, quindi è una scienza umana, poi gli apparati formali matematici con cui si mettono alla prova le correlazioni non ne fanno la fisica, capite? Né la fisica newtoniana, né quella einsteiniana, né quella delle stringhe, non è scienza naturale l'economia, però soprattutto dice, sono soprattutto inefficaci, non servono quasi a niente gli economisti. E in questo libro, che si intitola, ve lo dico subito, La fabbrica delle illusioni, l'editore è Rubettino, questo libro, ripeto, La fabbrica delle illusioni, l'editore Rubettino, sottotitolo chiarissimo, Il falso sapere degli economisti smascherato nella storia dell'idea di capitale, io vi suggerisco, per capire subito dove vuole andare a parare fin dall'inizio il libro, di andare, innanzitutto vi suggerisco, se non volete, non siete proprio appassionati, di cominciare da pagina 210 in poi, cioè da quando quando si parla di John Maynard Keynes, ed è molto divertente la contraddizione di Keynes nella sua teoria generale. Però di fondo, per capire lo spirito del libro, voi dovete andare ancora un pochino più avanti, dove troverete un grafico che è il grafico a fondamento del libro, cioè un grafico nel quale viene rappresentata l'andamento di crescita del reddito dell'americano medio dal 1841 al 2012. Si trova a pagina 232 di questo libro, La fabbrica delle illusioni. Se cominciate dal grafico di pagina 232, vi dovrete porre per forza un interrogativo, perché che cosa dice questo grafico? Questo grafico dice che in realtà il reddito dell'americano medio tra il 1841 e il 2012 non si discosta da un aumento di valore medio dell'1,91% annuo, e non vi si discosta, al netto di grandi crisi che avvengono, di risposte totalmente contraddittorie degli economisti su cosa bisogna fare per aggiustare il ciclo e rifar ripartire un paese e così via. Ecco, questo grafico esprime il pensiero dell'autore di questo libro, La fabbrica delle illusioni, perché insomma quello degli economisti è un falso sapere, e l'autore è qui con noi, ce lo facciamo spiegare. È Mario Fabbri ed è l'amministratore delegato, come vi dicevo, di Directa, che fa trading online dal 1996, prima che davvero la rivoluzione internet cambiasse le scelte dei consumi di tutto. Grazie di essere qui con noi, Mario Fabbri. Buongiorno a voi e grazie agli ascoltatori. Mi spiega come e perché negli anni lei ha maturato, perché qui c'è un enorme studio accumulato, tra l'altro lei ci promette un nuovo libro, perché qui non dice come la pensa lei, dice che ci promette un nuovo libro più ampio, ma detto questo, come è arrivato a questa convinzione un po' singolare per chi amministra risparmio che in definitiva dagli economisti si può fare a meno? Ma per la verità, adesso io preciso, non amministro, Directa non amministra, è un semplice tramite, esatto, i nostri clienti comprano, vendono, decidono loro. Ma io diciamo ero interessato, ero convinto di aver trovato un meccanismo economico, adesso su cui non entro adesso, che spiega tante cose, compresa anche quella linea tutta dritta, su scala logaritmica ovviamente, che si vede. Però lì il capitale non c'entrava, mentre gli economisti dicono che il capitale, l'investimento sono essenziali per lo sviluppo. E allora cosa ho fatto? Ho detto bisogna che capisca bene cos'è sto capitale, perché effettivamente non mi era del tutto chiaro, come penso che anche molti dei nostri ascoltatori potrebbe non essere chiaro. Cioè cos'è questo capitale di cui gli economisti parlano come del Deus ex machina? E così ho cercato di capirlo. Perché molti pensano che il capitale sia una grandezza finanziaria, che equivalga più o meno ai patrimoni, naturalmente qualcuno in più aggiungerà no, il capitale è uno stock di dotazione fisica. Sì, sono tutte, eccetera, come ho messo nel libro, ci sono tanti modi di dirlo. Ora, devo dire una cosa, faccio una differenza. Se parlo come privato, che cos'è il mio capitale, o se sono un'azienda, che cos'è il capitale, è chiarissimo. Esatto. E quindi lo dico anche nella micro... nell'ambito micro, capitale è una parola molto sensata. Ma qui stiamo parlando dell'economia macro. Ecco, nell'economia macro invece non ha praticamente senso, nonostante che gli economisti lo mettano al centro del discorso. Allora, questo è l'arrivo della riflessione. Io in realtà ho cominciato a cercare di capire cosa fosse, perché dico, sono quello non economista, leggerò i libri, troverò, e non ho trovato nulla. Ho trovato tanta confusione. Aspetti, prima di arrivare a nulla mi lasci dire che la parte iniziale, che è bella lunga, del libro è molto affascinante, perché ricostruisce dagli albori l'apparire di un'idea di capitale con i primissimi istituti di mercato tra il 1000, a cavallo del 1000 e il 1100, quindi è bellissimo da questo punto di vista anche. Però poi lei dice, io non ho trovato nulla che mi soddisfi. Ma non sono l'unico, devo dire, certo. Anche altri, ho citato qui proprio un economista che ha fatto il mio stesso percorso, senza riuscire a capire bene cosa fosse questo capitale di cui dell'intero paese, dell'intera economia di cui dibattevano i teorici senza costrutto, lo fanno ormai da più di 200 anni. Ecco. E allora, ricostruendo tutta questa storia, quello che emerge, mi spiace dirlo per quelli che ci fanno tante equazioni senza mai arrivare realmente poi a poter fare delle previsioni, è che l'economia, e io scrivo, non è una scienza ma una pseudoscienza, che dà un falso senso di sicurezza, specialmente a chi la vede da lontano e pensa che ci siano degli esperti che sono lì pronti a tenere sotto controllo le situazioni, a trovare le risposte giuste, come fossero degli scienziati, insomma. E invece trovano più che altro delle persone che divise in partiti, tra l'altro, o dicono, io ho semplificato, ho detto ci sono quelli che sono per il libero mercato, quelli che sono per il centralismo, e grosso modo è così poi, ecco. E quindi ognuno esprime la propria idea utilizzando tantissima complessità matematica, ma poi in realtà non quadra, non riesce a fare previsioni, metà delle volte gli va bene, metà delle volte gli va male, che è come giocare a dadi. Che è come giocare a dadi. Allora, a me, avendo letto il libro, mi verrebbe da dire che lei tende a essere un po' quello che si può definire con un termine un po' così improprio, ma per far capire a chi è a casa, un sottoconsumista. Cioè lei dice, ma sì, tutte queste teorie, che poi ci sono i balzi tecnologici, per esempio, tra prima, seconda, terza e quarta rivoluzione industriale, potete vederla come volete, ma nel medio periodo in realtà, quando c'è una sferzata che viene anche da grandi innovazioni tecnologiche o a grandi innovazioni organizzative, il principio del taylorismo, il fatto che c'era un'automobile che doveva essere alla portata di tutti, così a milioni se la compravano e a milioni se ne produceva, dite quello che volete, ma in realtà l'illusione di avere tasse di crescita in realtà troppo superiore al 2% è un'illusione, perché si sbatte sulla capacità del consumo, che è molto più limitata, di reggere a questi ritmi. È un sottoconsumista in realtà lei? Pronto? Diciamo che nella gran parte delle situazioni, ripeto quasi le parole che adesso non ho citato di Hobson, mi pare, dice che nella gran parte delle situazioni dell'economia moderna il limite alla crescita dell'economia è il consumo e non la produzione. Poi ci sono dei casi anomali, come potrebbe essere magari l'Italia in questo momento, in cui il limite diventa la produzione, ma di solito negli Stati Uniti in particolare è il consumo. Allora, qui ci fermiamo un secondo perché siamo in ritardo, i 60 secondi di informazione stradale. La versione di Oscar. Eccoci qua, siamo tornati in diretta a 16:48, 50 secondi oggi, messaggi un po' pochi perché la trasmissione è un po' didascalica, che non ruspa nelle cose della politica quotidiana. Capisco che vi entusiasmi di meno, ci torneremo domani abbiamo un bel temino su cui vi potete scatenare telefonando, però ogni tanto bisogna anche proporre delle buone letture rispetto alla condizione del nostro paese, ed è quello che io di tanto in tanto faccio. Oggi c'è questo libro, La fabbrica delle illusioni, Falso sapere degli economisti, editore Rubettino, ed è con noi l'autore Mario Fabbri. Un'altra indicazione per chi mi ascolta e scarica in podcast, un'altra pagina da cui potreste cominciare a leggere è pagina 246, perché a pagina 246 voi trovate in buona sostanza i 6 tipi diversi di crisi, semplificando, che possono avvenire nella storia dell'economia moderna, e le 4 diverse terapie che le scuole economiche propongono, perché le crisi non sono tutte uguali e quindi le risposte non dovrebbero mai essere tutte uguali. Anche io, che sono liberista eccetera, riconosco che ci sono delle crisi in cui non è che si risponde dal punto di vista solo dell'offerta. Certo, in un paese come il nostro, dove oggi il settore produttivo è soggetto a dei prelievi bestiali e a dei gravami normativi terribili, sono convinto che questa sia la buona strada. Ma in realtà, Mario Fabbri, come la pensa rispetto alla condizione dell'Italia di oggi? No, per quello che dice dell'Italia io sono completamente d'accordo. In questo momento il problema dell'Italia è la sofferenza del settore produttivo, dovuto precisamente al fatto, prima di tutto, che si è ristretto e quindi grava su di lui un carico, diciamo, fiscale dal punto di vista esterno enorme, e poi delle assurdità normative che non finiscono più. Sembra che ci sia della gente che fa fare il normatore, il burocrate, per darci un tono, ma in realtà impedisce, c'era un bellissimo libricino, volevo solo fare la pizza o qualcosa, dove spiegano tutte le varie procedure, regolamenti, corsi che deve fare uno per aprire una pizzeria, ma la stessa cosa viene praticamente in tutti i settori produttivi. Ecco, e quindi non è poi così misterioso il fatto che la produzione poi alla fine non riesca a venire fuori, e se la produzione non viene fuori il reddito globale non potrà che ridursi, perché più grosso modo, se uno evita di confondersi l'idea con l'import-export, gli italiani consumano quello che producono, non possono consumare di più perché non c'è. Senta, Una delle cose più ricorrenti e con un certo fondamento in questi terribili anni di crisi che abbiamo nel post Lehman Brothers è che è un po' singolare sentire da chi si occupa poi di trading online un invito a essere molto concreti sui tassi di crescita, quando invece siamo reduci dall'esplosione di un sistema finanziario che, per così dire, annullava, credeva di annullare i rischi dell'emittente e i rischi del prenditore, promettendo tassi di ritorno al capitale finanziario a doppia cifra e costanti, anzi no, crescenti nel tempo, cercando rendimenti sempre più elevati, oltre il 25% e cose di questo genere qua. Come mai quindi uno che si occupa di finanza ha dei parametri così più, devo dire, terra terra rispetto ai ritorni finanziari molto più elevati che pur nella crisi continuano a essere un po' la dominante del mondo della finanza? Ma io adesso, diciamo, sono interessato a capire come funziona i meccanismi economici. Il fatto che i miei clienti operano in borsa non deve orientare la mia analisi a una conclusione piuttosto che un'altra, e siccome mi sembra di poter dire che il sistema finanziario è diventato un'abnorme costruzione che addirittura è dannoso, non solo per la sua enormità ma perché è disfunzionale all'economia, non ho paura di dirlo, è quello che penso. Poi si può entrare nei dettagli di come possa essere avvenuto, sono quelle cose che più sono complicate, enormi e complesse, che dà un grosso prestigio poi a parlarne, però non funziona perché se non voglio entrare nei dettagli, ma anche l'andamento tra la borsa e l'economia reale è molto lasco, ecco. Poi alla lunga qualcosa c'è, però viene anche da domandarsi bene a cosa serva tutto questo discorso complicatissimo, di cui noi, tra l'altro, è che ci dà il nostro pane. Questo, senta, quando vede gli economisti, una delle costanti, no? Sono gli economisti in televisione che di solito si tacitano a vicenda dicendo studia, non hai capito, naturalmente propalando il fatto, penso per esempio adesso ultimamente capita con anti-euro nei talk show che spiegano che è tutto sbagliato, che basta uscire dall'euro e noi non facciamo la fine dell'Argentino, del Venezuela, noi troviamo automaticamente il giardino delle Esperidi. Quando vede economisti che si tacitano l'un l'altro in nome della propria scuola, che cosa pensa? Le viene da sorridere, scuote la testa, oppure immagina che molti a casa poi in realtà gli danno retta questi? Ma molti a casa hanno tanta voglia che ci sia qualche persona molto sapiente che sappia come vanno le cose, le tenga sotto controllo, e magari quelli che hanno delle conclusioni simili a quelle che a loro piacciono, però questo è l'indizio più chiaro, se vogliamo, che non c'è nessuna scienza economica. Sulla fisica si dibatte su cose marginalissime, molto piccole, quindi in economia non sono chiari neanche i concetti su cui si discute, il risparmio è buono, è cattivo, queste sono delle bellissime alternanze di cui parlo peraltro nel mio libro, a seconda di come girava ai padroni del vapore, per cui quando gli aristocratici erano la fase dominante, allora bisognava spendere e risparmiare, era un'operazione che bloccava la circolazione del denaro. Ecco, e poi con Keynes invece risparmiare conduce alla crisi. Allora, tutti questi dibattiti, con Keynes, come dice lei, da una parte prima si dice no, le crisi vengono dal fatto che non si investe abbastanza, poi invece c'è la cosa, dice no, che non si consuma abbastanza, quindi attenzione perché il risparmio diventa negativo di nuovo, una bella contraddizione. È chiaro che c'è una confusione che non si può pensare che si risolva discutendo ancora, perché proprio il sistema economico, io ripeto, lo vedo come una pseudoscienza che non può cavare il ragno dal buco. Così, e quindi all'economia che bisogna mettere, secondo lei? Ah, il Ministero dell'Economia, c'è una persona sensata, e che, appunto, dico, il problema è che il settore produttivo in Italia in questo momento non funziona per problemi normativi e di eccesso di carico, questo è semplice. Non bisogna pensare prima di avere uno che pensi che aggiungendo il 3% di qua togliendo il 5% di là, bisogna buttare via, secondo me, un mucchio di norme normative. Ecco, io su questa conclusione di Mario Fabbri la sposo. Ci vuole una persona di buon senso, secondo me un politico meglio di un tecnico, che cambi molto dei dirigenti generali della pubblica amministrazione, i veri sacerdoti che scrivono i provvedimenti, e che non creda troppo alle proprie equazioni della propria scuola. Continuate su Radio 24, grazie a Mario Fabbro, appuntamento con me a domani.